anarchico. A me, va, sono un demonio io, una belva umana, altro che anarchico. Sono dotato di una tale dose di cattiveria da affossare tutte le guerre del mondo. Sono anche brutto, per rappresaglia. Fascino, zero. Forse sono malato di fegato, ma non mi curo, così imparano. Gli anarchici amano l'umanità. Sono una merda io, altro che anarchico. A me l'umanità mi piace guardarla dall'alto. A volte spengo la luce e mi metto alla finestra. Ridicoli loro, Curano la facciata e qualche volta anche lì dietro. E io invece da qui li vedo ribaditi, spiaccicati sul marciapiede, schifosi, con le gambette che escono dalle spalle. Bisogna renderle chiare le superiorità morali, anche con fatti materiali, se no si afflosciano le superiorità. Solo così si spiegano i campanili e le torri Eiffel. Qualcuno dice andare a Dio, guardare sotto, dalla torre Eiffel. Quando si è sullo stesso piano degli uomini, è difficile considerarli come delle formiche. Ti sfiorano, ti accarezzano, ti entrano dentro. Che schifo, ci si affeziona. Non c'è niente di peggio dell'amore, me lo devo ricordare. Sono una merda io. Che c'è, eh? Guardano in su. Stupidini. È il tempo che è cattivo? No, sono io che sono una merda. I bambini. Come li odio i bambini, coi bambini è più difficile, è come bocciare il pallino. Ci vorrebbe l'anticipo. Ma cresceranno, mi verranno dei bei testoni, allora io, guarda come corrono, mai che vadano sotto una macchina, mai. Io sono per le macchine, per forza sono una merda. Dai, è lì, è tuo, prendilo. L'ha mancato. Guarda, negati, non ne prendono mai uno. No, una volta uno l'hanno preso. Non era un bambino, no, era un anziano. Meglio che niente. L'ambulanza e io giù che arrivo primo. L'ambulanza, allora sono arrivato lì primo, l'ho visto lì per terra, ho visto tutto quel sangue, quanto sangue. Stai calmo, mi dicevo, non è niente, non è più commovente di un po' di smalto fresco, dai, fai conto che gli abbiano dipinto la faccia di rosso, tutto qui, sono una merda. Ad un certo punto ho sentito una sporca dolcezza, una schifosa pietà prendermi alla nuca e anche alle gambe e sono svenuto. Sono una merda e mi sono risvegliato in farmacia. Erano gentili, mi davano da bere, mi davano delle gran pacche sulle spalle, mi volevano bene. No! Sono scappato! Li ho insultati, sono corso a casa terrorizzato per un attimo, anche se solo per un attimo. Ho avuto paura di non essere neanche una merda. L'anarchico, Giorgio Gaber.